Tempo di sport con Carlo Genta. E allora subito a Sanremo, dove Pier Augusto Stagi ci dà il vincitore della grande classica di primavera. Sì, straniero doveva essere, straniero è stato, vittoria di Kerans davanti a Fabian Cancellara e Vincenzo Nibali, un australiano sul traguardo di Sanremo, un finale come sempre elettrizzante, bellissimo, incerto fino alla fine. Sul poggio Vincenzo Nibali ha provato all'ultimo chilometro, nel tratto forse più duro, il colpo per portare via la fuga, ci è riuscito, ha portato via Cancellara e Gerans. Purtroppo poi Gerans era il più veloce di tutti, Cancellara ha fatto praticamente tutto da solo, l'hanno fatto tirare fino ai 300 metri e poi Gerans ha trafitto sia il campione svizzero che il nostro vincitore, Vincenzo Nibali, vincitore della Tirreno Adriatico, Vincenzo Nibali. Quindi il primo Gerans, secondo Fabian Cancellara, terzo Vincenzo Nibali e quindi ancora uno straniero sul traguardo di Sanremo, ancora un australiano dopo Matthew Goss e la volta di Gerans. Vittoria in volata piuttosto netta. Saluto e ringrazio il mio amico Mario Boni, grande appassionato anche di ciclismo. Ciao Carlo, Mario. Ciao agli ascoltatori. Speravi in Nibali, eh? Speravo in Nibali, anche se l'ho visto un po' stanco sul poggio e credevo fino alla fine che vincesse Cancellara, invece Gerans ha stupito tutti. Pier Augusto, che corsa è stata? Io sto vedendo un capitombolo sul viale finale, corsa costellata ancora da diverse cadute, nonostante oggi la giornata fosse nettamente primaverile, niente pioggia, niente problemi di questo tipo. Sì, niente pioggia, anche se si è temuto che girasse in pioggia, però vento, molto vento, freddo, gelido. La corsa è stata bella, tirata come il solito alla Sanremo, sono saltati subito sulle mani, è saltato il favorito numero uno. La vera notizia è il crollo, diciamo, di Mark Cavendish, il campione del mondo in carico, che era attesissimo da tutti, non solo dai bookmakers, ma dagli appassionati del ciclismo sul traguardo di Sanremo. Si voleva la foto della classica di primavera con il campione del mondo davanti a tutti, invece sulle mani il campione del mondo, il britannico Tim Sky, ha subito accusato la salita e lì ha dovuto abbandonare praticamente i sogni di vittoria, con lui anche Alessandro Petacchi, che comunque a questa Sanremo c'era arrivato in condizioni precarie perché una settimana fa era stato colpito da un virus influenzale. È tagliato fuori subito anche Tyler Farrar, tagliato fuori anche il giovane Elia Viviani e poi devo dire molto sfortunato negli ultimi chilometri il campione belga Philippe Gilbert, che sornione era lì e stava pedalando secondo me molto bene ed era uno degli uomini più pericolosi per il finale, invece è stato tagliato fuori da una caduta delle macchine parcheggiate a bordo strada. Ha tirato un brutto scherzo a qualche corridore, tra questi anche Philippe Gilbert, e poi appunto c'è stato questo finale sul poggio dove Nibali ha tentato il tutto per tutto, ma è riuscito a fare in parte diciamo quello che era nelle sue intenzioni, che era quello appunto di mettere a dura prova gli inseguitori e giocarsi le carte in discesa. Sfortuna ha voluto che dietro a Nibali andasse Fabian Cancellara, che in discesa è bravo ed è audace quanto il siciliano, certo. E soprattutto Cancellara sul piano ti tramortisce, sì, infatti certo, l'ha fatto arrivare con la lingua penzoloni per la volata, certo. Perché lui ha praticamente fatto l'ultimo chilometro e 700 metri a 60 all'ora e alla fine Gerans gli ha tirato il collo e Gerans è rimasto lì sulla ruota in pratica, ha tirato la volata Gerans e Gerans, esatto, ha vinto molto molto facilmente e Nibali era con le gambe in croce, come si può dire. Grazie Pier Augusto. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Allora Marione, non ce l'abbiamo fatta a vedere un italiano sul podio della Sanremo, questo è un peccato. Non ce la faremo neanche. 800240024, numero verde. Tra poco parliamo anche di rugby e del fatto che abbiamo evitato il cucchiaio di legno battendo una orribile Scozia, peraltro. 13-6. Parleremo anche di una Formula 1 che domani mattina ci farà svegliare presto, ma non con grandi aspettative, visto che le Ferrari sono andate davvero molto male. Davvero molto male le Ferrari, perché per trovare la prima Ferrari bisogna scendere a metà della griglia di partenza. Ma come mai, secondo, sbagliare così la macchina? A volte mi domando Dato che si copiano, tempo per Alonso, sesta fila. Si copiano tutto, no? In Formula 1. Com'è possibile? Insomma, la macchina anche l'anno scorso, no? Partita con l'handicap, poi speriamo che riesca a crescere, che riesca a crescere velocemente, Mario, perché insomma sono ormai molti anni di crisi, un lungo buio per la rossa. Però la tecnologia non lascia tanto tempo per mettersi al passo, dato che c'è sempre un gap a volte tra le prime macchine e quelle che stanno dietro, che difficilmente viene colmato nell'anno in cui si corrono. Mi auguro di sbagliarmi, che Ferrari ce la faccia. Ma io credo che la Red Bull sia ancora la macchina da battere, anche se questa pole position di Lewis Hamilton lascia intendere come alla McLaren invece abbiano lavorato piuttosto bene nel corso dell'inverno. Non troveremo, caro Mario Boni, nemmeno la tua Inter al gran finale di Champions League. Allora mi viene da dire che la sconfitta, adesso sai, cerco di salvare le poche era prevista? Era prevista per evitare altre figuracce? Esatto, mi hai tolto le parole di bocca, perché se è talmente assurdo. Indubbiamente il Marsiglia era una squadra scarsa, non possiamo nasconderci dietro un dito. L'unica consolazione che mi viene da pensare è che fossimo andati avanti, tu ci scherzi su, però io temevo di incontrare come il Milan il Barcellona oppure il Real Madrid e lì fare veramente una magra figura. L'Inter è una squadra che è in via di ristrutturazione e si sa, quando le cose sono in via di ristrutturazione è facile entrare da tutte le parti. Poi ti faccio anche fare tutto il pronostico per il futuro della Champions, fino al nome del vincitore, da sottolineare il Cool de Mou che si becca la Poel e col sigarone arriva verso la semifinale. Il comandante Mou, ragazzi, la fortuna poi arride agli audaci e a chi guarda, ha voglia di sfidare il mondo, come ha fatto Mourinho da quando vinse la Coppa con il Porto e poi l'ha vinta anche con l'Inter. È un uomo contro Mourinho, e questo è l'anno in cui invece ha una squadra per vincere, vediamo se ce la fa. Intanto andrei anche sul rugby, perché c'era Dario Ricci oggi all'Olimpico, poi c'è anche Giacomo Bagnasco con cui ci collegheremo più tardi e c'è anche un altro ospite che verrà qui a trovarci dopo il traffico per parlare di rugby, ma c'è Dario Ricci con Bergamasco e lo sentiamo subito. Ecco Mirko, allora, un successo veramente importante, che quanto pesa nell'ottica futura di questa nazionale? Penso che no, l'obiettivo era quello di vincere in qualunque modo, sapevamo che era importante per noi, per il movimento, per tutti quelli che erano venuti allo stadio, ci avevano creduto contro l'Inghilterra, quindi era bene che tornassimo con un risultato positivo. L'abbiamo lavorata bene tutta la settimana, è stata una bella battaglia in Galles, quindi sapevamo che dovevamo recuperare bene per essere in forma oggi. Il caldo sicuramente non ha aiutato nessuna delle due squadre, ma siamo riusciti a imporre il nostro ritmo e a vincere questa partita. Soprattutto negli ultimi minuti, quando eravate in inferiorità numerica, si è vista un'Italia che veramente la voleva di più della Scozia questa partita. Sicuramente bisognava lavorare il doppio e tutti quanti hanno tirato fuori tutte le energie che avevano in corpo e si è visto nel risultato finale, che è positivo per noi, ci abbiamo creduto fino alla fine, quindi la cosa importante, abbiamo giocato per 80 minuti, non era facile contro questa Scozia che ha dimostrato fino ad oggi di essere consistente fisicamente e sia in attacco che in difesa, quindi per noi era importante vincere questo duello e penso che abbiamo imposto il nostro ritmo e il nostro fisico. Un messaggio per chiudere qui dagli spogliatoi dell'Olimpico di Mirko Bergamasco ai 73.000 dell'Olimpico, un affetto straordinario, uno spettacolo nello spettacolo. Il primo ringraziamento va sicuramente a tutti i tifosi che erano oggi allo stadio, perché per noi è stato il 16° uomo che ci ha spinto fino in fondo. Sono orgoglioso perché sono sempre presenti e vengono sempre in qualunque momento, non ci lasciano mai, quindi per noi è una grande soddisfazione, vuol dire che il lavoro che stiamo facendo paga e dare una gioia a loro, soprattutto a noi, ma soprattutto a loro che vengono in ogni momento, in ogni situazione, in ogni luogo dove siamo, per noi è veramente una soddisfazione e speriamo di dargli ancora più soddisfazione alle prossime partite. Grazie Mirko. Questo Mirko Bergamasco con Dario Ricci. Mario Boni, poi subito dopo il traffico ti chiedo se sei un po' invidioso di questi del rugby che sono così popolari pur non vincendo quasi mai. Da baschettaro, te lo chiedo dopo il traffico. Vai. Per la cronaca vi do anche i risultati di Serie B che sono freschi: Modena batte Nocerina 2-0, Grosseto Cittadella 2-2, Gubbio Crotone 3-3, 1-1 del Torino sul campo della Juve Stabia, Empoli batte Bari 1-0, Sassuolo in rimonta sul campo dell'Albino Leffe vince 3-2, Sampdoria Ascoli 0-0. Reggina batte Livorno 2-1, Verona batte Vicenza 2-0. E io saluto e ringrazio la voce che conoscete molto bene, quella dell'economia, Sebastiano Barisoni. Ciao Sebastiano. Doppiamente ciao Carlo, ciao gli ascoltatori, doppiamente felice oggi, sia per il derby vinto da Verona che per un'Italia che ha evitato il cucchiaio di legno, sì, con battendo la Scozia in una partita difficile, ma alla fine per noi positiva. Senti, io ho chiesto a Mario Boni da Basquettaro se non è un po' invidioso, no, di questi del rugby, che oggi stadio olimpico 75.000 persone. No, quello che è strano del rugby rispetto agli altri due grandi sport, sono così popolari senza vincere quasi mai. quasi. No, ma il fatto è che la nazionale del rugby porti tanta gente allo stadio, cosa che non succede con le squadre di club, invece l'opposto di quello che succede nel basket e nel calcio, dove le squadre di club hanno sempre grande affluenza. È una cosa diversa, la nazionale è molto seguita, infatti come diceva Sebastiano 73.000 spettatori è una cosa pazzesca, pure per una squadra che non riesce a vincere o perlomeno non riesce a convincere. Oggi ha vinto, ha convinto in parte, ma poi ne parliamo dopo se vuoi sì. Carlo, soprattutto è importante invece che si sia evitato un cucchiaio di legno, perché anche quest'anno la stampa anglosassone non ha risparmiato critiche. Senti, ma anche secondo maliziose. Te è giusta questa formula delle sei nazioni, per cui sei in questo giardino dorato, è un giro che vale molti soldi, è un torneo che vale molti soldi, è una federazione molto ricca quella del rugby, è giusto stare lì per diritto, non ti dico divino ma quasi? Beh, diciamo che in Europa obiettivamente non si vedono altre squadre in questo momento che potrebbero allargare il torneo o prendere il posto dell'Italia, onestamente. E aver vinto oggi con la Scozia, come l'anno scorso con la Francia, come 4 anni fa, se non ricordo male, con la Scozia di nuovo, è importante per dire, insomma, anche noi nella abbiamo parte bassa della classifica, ma ce la giochiamo purtroppo quasi sempre con la Scozia. Devo dire che su altri fronti c'era un'ipotesi, si diceva fate entrare l'Argentina, no, l'Argentina ormai entra in quello che non sarà più il Tri-Nation ma il rugby allargato a 4, ed è giusto, l'emisfero sud giocherà appunto con Sudafrica, Nuova Zelanda e Australia da quest'anno. Mi sembra che in questo modo si siano messi a tacere, come accennavo, anche tutte quelle polemiche sempre un po' snob, un po' malizioso del mondo anglosassone, che ogni anno si ripresenta con articolessi di giornali dicendo ma allora la teniamo o non la teniamo questa Italia nelle sei nazioni. Beh, finché tu arrivi penultimo potrei girare la domanda agli amici scozzesi, la teniamo o la teniamo la Scozia, cioè nessuno si pone mai il problema, eppure è la terza volta che noi riusciamo a non prendere cucchiaio di legno, per cui un po' di pazienza. Dopodiché, visto che mi stuzzichi sul tema, a mio avviso si è visto anche l'impatto del nuovo allenatore, di Jacques Brunel, sulla squadra. Lo scorso sabato, tu ti ricorderai, ero a Cardiff e la sera poi ne ho parlato con Castro Giovanni, con Paris, con il capitano, e loro sottolineavano che Brunel li sta impegnando in un rugby un po' più di alto livello. È una squadra che sale di più, quindi aspetta meno l'avversario, si chiude meno in difesa. Sul pacchetto di mischia oggi con un Castro Giovanni pronto al 70% qualche difficoltà l'abbiamo avuta, però è una squadra che obiettivamente sale di più, mancano delle idee in attacco, manca soprattutto quello che voi potreste chiamare il numero 10, cioè noi non riusciamo a trovare il giocatore, pur con un capitano bravo come Paris, che è carismatico anche per la squadra, il giocatore che ti risolva con la fantasia le azioni offensive. Devo dire che oggi, a differenza del Galles e dell'Irlanda, l'Italia ha fatto quello che molti si aspettavano facesse, cioè molti calci in avanti, molti calci a seguire, per scardinare un po' quella che era la difesa scozzese. Non abbiamo grandi idee quando abbiamo la palla in attacco, almeno creiamo un po' di giochiamo con i terzini, scompaginiamo la linea di difesa. Sentiamo anche la lettura di Giacomo Bagnasco su come è stata questa partita sul piano tecnico. Buongiorno a tutti. Diciamo che la partita da osservatori neutrali è stata una partita brutta, questa è la prima cosa che si può dire, credo che sia difficile da negare. L'Italia ha avuto una supremazia territoriale nettissima, e questo per merito suo e per demerito degli scozzesi, che erano irriconoscibili sia nel gioco alla mano sia nelle touche, dove hanno perso con due uomini oltre i 2 metri, hanno perso 6 rimesse laterali su 12. Detto questo, l'Italia ha giocato con il cuore, ha sprecato tantissimo nel primo tempo. Nel primo tempo l'Italia ha giocato 38 minuti, considerato naturalmente che il tempo dura più di 40 minuti. Ha giocato 38 minuti nella metà campo avversaria contro 9 minuti della Scozia, però è finita 3-3. Questo dice la quantità di spreco che c'è stata. E nel secondo tempo abbiamo sfruttato bene la superiorità delle superiorità numeriche, battendo gli scozzesi al termine di un'azione lunga, non limpidissima, però alla fine con un bel movimento, un bel ingresso di Vendizzi, e a quel punto è cominciata la sofferenza, però, perché abbiamo avuto due infortuni di troppo a Canale e a Botes, c'è stato Favar in terza linea che ha dovuto andare a giocare nei centri, c'è stata l'espulsione temporanea di Zanni, c'è stato il 16 il calcio di Laidlow, e tutto sembrava congiurare contro gli azzurri, che invece hanno tenuto botta, hanno fatto un bel drop con Botes. Proprio Favar è stato autore di un placcaggio probabilmente fondamentale, e a quel punto c'era da dire che i demeriti della Scozia saranno stati superiori ai meriti dell'Italia, ma alla fine nessuno può contestare questa vittoria. Il cucchiaio di legno finisce oltre manica, e questa non è una cosa da poco, come sottolineava Sebastiano. Intanto, dimmi Seba. No, è che Giacomo è un purista del rugby, e quindi lui preferirebbe una partita bella ma persa a una partita brutta ma vinta. Invece no, io venendo dal calcio, no, è una battuta, esattamente il contrario, è esattamente il contrario. Siccome di solito invece Carlo tutto sommato pensa che io difenda fin troppo la nazionale, vabbè, ho trovato uno che la difende più di me. No, ma tu hai ragione. Oppure abbiamo visto l'Italia ha meritato di vincere, e questa partita probabilmente si giocava così. Certamente se l'Italia avesse mostrato in alcuni momenti quel gioco che ha fatto intravedere durante il qua e là durante il Sei Nazioni, probabilmente già nel primo tempo era decisamente in avanti. Al di là della battuta, c'è molto da costruire, ha ragione Giacomo, che questa forse è una delle Scozie più brutte, la Scozia più brutta che io ricordi da tanti anni nel torneo 5 e 6 Nazioni. Quello che volevo dire è che una squadra che si è mangiata una vittoria con la Gran Bretagna, che sarebbe stata storica, ha giocato male con l'Irlanda, col Galles ha fatto sostanzialmente quello che ci si poteva attendere, era importante psicologicamente oggi non finire con il cucchiaio di legno. D'accordissimo con te che manchi comunque, a mio avviso, poi un'idea di fondo risolutiva su cosa fare quando sei nei loro 22 metri, certo. Come ricordava Giacomo, abbiamo passato tantissimo tempo con la palla in mano senza concludere nulla. Mario, ti piace il rugby? Lo guardi Sei Nazioni? No, devo essere sincero, non lo guardo, non sono appassionato di rugby, quindi neanche rimango basito di fronte alla competenza di Sebastiano, che lo sento, ascolto solo in economia, invece ne fuma tanto anche di rugby. Fumo tanto di tutto, ma è anche di rugby. Anche di rugby, insomma, d'altra parte, insomma, è nel territorio, perché è una nazionale che vale molto, questa, Sebastiano, vale molto anche in termini economici. Vale molto in termini economici perché, insomma, diciamo tutta, Giacomo conosce la vicenda, il presidente Dondi, che è un presidente che è tanto tempo che è presidente della FIR, non ho detto troppo, ho detto tanto, si è avvantaggiato moltissimo. Questo ingresso nelle Sei Nazioni vale oro per la federazione. Ecco, quello che si potrebbe chiedere, ma faremo un'altra puntata su questo, è anche un po' più di continuità in alcune cose, per esempio sull'allenatore. Cambiare allenatore ogni due anni, cambiare scuola ogni due anni crea confusione. Noi abbiamo fatto tutte le scuole possibili, sudafricana, neozelandese, sudafricana, francese, e trovare finalmente, so che potrà far sorridere, ma quello che è stato Dominguez per la nazionale di allora, quella che ci ha fatto entrare nelle Sei Nazioni, cioè un regista, un qualcuno che abbia visione di gioco e dica ai ragazzi cosa fare una volta che la palla Dominguez ce l'hanno. E Troncon ci hanno portato fin lì. Io ringrazio Giacomo Bagnasco da Roma. Prima di dell'Ellas non mi vuoi chiedere nulla? No, dell'Ellas invece no, volevo portarti su questo discorso, perché l'Ellas oggi ha vinto 2-0 il derby con il Vicenza, è in piena bagarre promozione, il Torino ha soltanto pareggiato, adesso si tratta di attendere lunedì, c'è però il Pescara, no? Pescara lunedì, sì. Senti, ma sempre economicamente, visto che abbiamo Mario Boni, che è un grande tifoso dell'Inter, la situazione dell'Inter invece tu come la valuti? da un punto di vista economico non mi permetto di dare consigli a Moratti, ci mancherebbe. Invece sarebbe quasi meglio. Ma diciamo che la gestione intera dell'Inter negli ultimi anni è stata una gestione, spero che Moratti gestisca così l'Inter e non la Saras, che invece è la sua società di raffinazione. Parlare di gestione produttiva e profittevole forse sarebbe esagerato. Il problema lì vero è sempre quello che poi tu ottieni dagli investimenti che hai fatto, anche se sarebbe sbagliato applicarlo al calcio, ma insomma, se tu fossi una società quotata con gli investimenti fatti dall'Inter in questi anni, forse avresti già portato i libri in tribunale. Nel senso, però il calcio funziona in un altro modo e ci mancherebbe. Ma ha ancora un senso gestire il calcio italiano in questa maniera? Perché è ormai l'ultima frontiera di un calcio gestito come negli anni 50, cioè nulla è cambiato, c'è il presidente padrone che mette i soldi. Sì, devo dirti che però l'esperienza italiana di, se mi vuoi sul tema, di quotare le società di calcio in borsa è stata un'esperienza forse ancora più negativa rispetto alla gestione familiare, cioè noi ci troviamo con dei... Perché subentra la passione, il calcio è passione, c'è il mecenate, so che forse non sarebbe giusto parlare di questi termini, però c'è il mecenate perché ti porta, la passione ti porta a fare cose che normalmente non porti a fare, in economia la passione non c'entra nulla, e invece il calcio è solo quello, perché i conti anche del Barcellona, leggevo stamane, non sono a posto, nonostante abbia degli incassi che siano stellari. No, devo dire che poi tra l'altro, ma qui andremo troppo in là, c'è stato anche un trattamento un po' di favore per le società di calcio quotate in borsa, che non è mai stato fatto, non si è mai avuto per società normali quotate in borsa, cioè la Consob stessa a suo tempo autorizzò la quotazione di società così trasparenti, così coerenti nei bilanci, forse del tutto non lo erano e tuttora vengono trattate con un occhio di riguardo o con una certa comprensione. Ti chiedo questo in maniera secca, poi ti lascio andare, ha un senso quotare in borsa le società italiane di calcio? Con una storia di bilanci così come dimostra la borsa, non lo dico io, no, nel senso che o tu le strutturi veramente come della società per azioni e allora però è anche una governance, il tema della governance è il tema che citavate prima, non ci può poi essere però il proprietario manager che scende in campo un po' come vecchi patron delle squadre degli anni passati. Per cui se la governance è quella, allora sì, ha un senso, si può fare, ci sono esperienze all'estero che te lo dimostrano. Sì. Da noi non si è fatto e soprattutto è stato un modo per scaricare debiti già acquisiti molto spesso sul mercato, con la conseguenza che ormai i titoli delle società quotate sono molto molto sottili, cioè poco trattati, si muovono in maniera assolutamente incomprensibile, cioè molto volatile, spesso nemmeno rispondendo alla logica del campionato, per cui insomma alla fine mi è sembrato un po' un minestrone, se devo dire. Perché anche non essendoci gli stadi di proprietà, il calcio italiano si basa solo sul valore del giocatore, e sappiamo questo quanto sia labile errore. questo confine, no? Tu prendi un giocatore che hai grandi aspettative, ha una quotazione X, e poi c'è l'adattamento, c'è il fatto che c'è la fidanzata, sono ragazzi anche molto giovani, quindi sappiamo quando sei giovane sei anche, in Toscana si dice, sei nell'età del bischero, volubile. Sì, ma dico, questo è verissimo, cioè l'esperienza britannica per esempio ti dimostra che quando tu gestisci lo stadio e tutto il merchandising in senso ancora più serio, allora hai a che fare con una società... Cespiti immobiliari. Cespiti immobiliari, diritti non solo sul cartellino dei giocatori, sicuro, ma anche su tante altre cose. Insomma, lì c'è molto da fare, tranne forse alcuni rari casi in Italia, ma c'è molto da fare. Vedremo se servirà la gestione dello stadio, che poi significa non solo lo stadio in sé, non solo i paganti, ma tutto un insieme di altre attività che puoi sviluppare. Fino adesso l'esperienza è stata di quelle che potevamo anche risparmiarci. Complessivamente tratta, senza citare nessun titolo nello specifico, ma chi vuol capire ha già capito. Senti, grazie, torna. Grazie a voi, è un piacere. E forza Hellas. 800 24 00 24, qui con me il mio amico Mario Boni. Allora, subito col domandone, Mario, perché mi scappa dall'inizio. Chi vuoi come allenatore dell'Inter? Domanda complessa. Villas Boas, Bielsa, che era già stato trattato l'anno scorso, Blanc, Spalletti. Sarebbe qualcun altro? Montella, parlo. Montella. Io ho sentito anche Mazzarri, direi più che altro. Mazzarri, tutti fa adesso quando c'è il Toto allenatore. Anche Capello ha detto no, non ci penso neanche. Bufale. Io credo, caro Carlo, che all'Inter serva sì un allenatore, fermo restando la. bravura anche di Ranieri, perché voglio dire, non è che possiamo buttare alle ortiche Ranieri. Il fatto che manca, al di là dei giocatori, è una struttura societaria che permetta all'allenatore di lavorare in tranquillità. Noi abbiamo la fortuna di avere un presidente come Moratti, però abbiamo la fortuna di avere un presidente proprietario tifoso, troppo tifoso, che concede troppi alibi ai suoi giocatori. Mourinho è stato grande perché ha saputo imporre la sua filosofia. Faceva tutto lui, ma non basta far tutto lui, imponeva le sue scelte senza intromissione, forse ne aveva il carisma. Ecco, l'Inter aveva bisogno di un allenatore con grande carisma. Sì. Ecco perché Villas Boas è un grosso punto interrogativo, perché è giovane, e l'ultimo fallimento, quello del Chelsea, potrebbe costare in termini di autorevolezza all'interno dello spogliatoio. Vediamo Villas Boas, chi resta? Chi vorresti? Poca roba, perché Bielsa è un nome ai più sconosciuto, al di là che allena bene l'Athletic Bilbao. Sta facendo... allenato la nazionale argentina, quella cilena, facendo molto bene. Molto, però si scontra con il panorama italiano, che è molto complicato, in una squadra come l'Inter che deve essere completamente rifondata. Io non smetto mai di ripetere che nel calcio non ci può essere troppo rispetto, non ci può essere, i giocatori prendono tanti soldi, e quindi non è che ci può essere un occhio di riguardo con chi è stato grande, ci vuole da parte chi è stato grande la consapevolezza che deve essere messo da parte. Mentre adesso, a quanto pare, insomma, è la vecchia guardia a comandare in prima persona. L'hai detto tu, ma hai perfettamente ragione, perché nello sport, non parlo solo del calcio, non esiste la democrazia, c'è la dittatura, c'è uno che comanda e gli altri stanno sotto, e purtroppo è così. E io quando leggo che il presidente, a parte il fatto che a me non piace un presidente che rilascia una dichiarazione a settimana sulla Gazzetta, proprio per quel discorso di autorevolezza che deve dare a tutti, non basta l'autorità che ti viene consegnata, l'autorevolezza dei personaggi, ma toglie quella che è la struttura piramidale della società, e i giocatori devono fare quello che dice l'allenatore con rispetto chiaramente dei ruoli. Adesso ti faccio sentire invece cosa ha detto oggi l'allenatore dell'Inter attuale, Claudio Ranieri, che sa benissimo di essere in una posizione di estrema fragilità. Domani c'è l'Atalanta e, insomma, vediamo. Tanto lui oggi parla così. Questo è il calcio italiano, no? Per cui non è una cosa nuova, non lo è per me, non è per tutti gli altri allenatori italiani, e non, per cui io vado avanti, lavoro, la mia professionalità è a prova di bomba, non vedo nubi, non vedo nulla, sono determinato a far bene con la squadra. Vito, ma... io credo che Ranieri sia un buon allenatore, ma ha anche un compito facile adesso con l'Inter, perché non ha più nulla da vincere, e sarebbe questo il momento di cominciare a rifondare l'Inter, facendo giocare i giovani. Io non posso vedere, scusatemi, perché io parlo, il termine prima che non mi usciva dalla bocca, dalla lingua, era riconoscenza. Non ci può essere riconoscenza nello sport in generale, e adesso sarebbe il momento di vedere chi è da Inter, per cui i grandi vecchi che tanto ci hanno fatto godere, è il momento che facciano un passo indietro per farne tre in più la società. Sì, sono d'accordo con te. Invece dei continui scazzi tra Milan e Juventus, cosa mi dici? Ma io credo che battaglia, questa guerriglia continua a distanza, ma sai, tutto è stato amplificato da quell'errore grave nella sfida tra di loro. Sì. Poi gli errori non capisco perché, anche se ti dico, Mario, l'ho detto molte volte, la cosa peggiore di quella partita non è stata neanche quell'errore, ma tutto ciò che è successo prima, caricandola di mille significati, sì, già da lontano, e soprattutto quello che è successo dopo, Far West, Saloon. Carlo, ma questo è il calcio, è il nostro sport, è la perversione. Noi amiamo assoluta, due, Mario. Noi amiamo due cose nella nostra vita, la mamma e la squadra di calcio, e sono due cose che non cambieremmo mai. Il fatto che noi carichiamo di così tante pathos ogni partita è qualcosa che nella nostra natura, con l'impatto mediatico che c'è in questi, sappiamo tutto, noi sappiamo anche con Twitter, sappiamo se uno va a fare la spesa, e ci mettiamo in coda per sapere se Schneider... La cosa peggiore che ci interessa, capito? Se io personalmente questo... No, è vero, ovvio che poi l'allenatore, quando che ti metti lì a sentire la conferenza stampa di quello che hanno da dire questi poveri allenatori, che non sanno neanche cosa dover dire, giustificare le proprie scelte, eccetera, ma siamo nell'era mediatica, e quindi è ovvio che si continua a caricare di valori che poi non hanno certe partite. Milan e Juventus è una di queste partite, figurati dopo un caso come quello che c'è stato. Io dico che alla fine di un campionato le situazioni favorevoli e non favorevoli alla fine si equivalgono, no? Però abbiamo imparato anche, e lo sanno benissimo loro, che la politica del lamento no, è brutta, è stucchevole, stucchevole, perché tutte le squadre poi avrebbero da recriminare chi è interista, chi è Milan milanista, e chi prepara che i dossier, chi... esatto, questo è sbagliato, che perché non, almeno io non credo in questo, credo che poi 11 giocatori vanno in campo, l'arbitro ha grandi difficoltà nel battito di un ciglio come i guardaline a dover fare una scelta. Ma poi io credo, guarda, credo che facendo, creando un clima di questo tipo, metti anche i tuoi giocatori in cattive condizioni, certo, perché sono condizionati dall'operato dell'arbitro. Il giocatore deve andare in campo fregandosene dell'arbitro, sereno. Io ho visto la Juventus la settimana scorsa, ad ogni contatto, ogni fischio, tutti gli occhi erano rivolti all'arbitro, c'era grande ricerca di qualcosa. E ti dico, per il parallelismo, succede adesso anche nel basket, quando giochi contro Siena, ogni contatto che il giocatore di Siena viene visto dai giocatori avversari come un sopruso. Invece no, ragazzi, questo è lo sport, no? Poi se una squadra è più forte vince, perché il risultato finale è sempre, a meno di cose clamorose, e noi interisti ne conosciamo qualche una, sono cose che fanno parte dello sport. Poi ne parliamo anche del basket, anche perché, come sai, Sergio Scariolo 8 giorni fa da questi microfoni è stato pesante, hai fatto uno scoop, l'ha fatto da solo, ha detto cose molto, per cui oggi è stata questa audizione di Scariolo per chiarire il senso delle sue affermazioni. Silvio dalla provincia di Lecco invece è un ascoltatore, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Non ho capito chi era l'ospite che è con voi, perché ho acceso la radio al volo adesso, ma Mario Boni, sì. Mario Boni, certo. Perfetto, volevo intervenire sull'Inter. Sì. Ovviamente sono un tifoso dell'Inter e anche io non sono contento delle ultime due stagioni. Però smettiamola di fare della retorica sul discorso presidente che non ha la società alle spalle, che quando c'era Mourinho andava tutto bene. Quando c'era Mourinho andava tutto bene perché abbiamo vinto, ovvio. Ma io credo che una società ci sia, così ad averne di presidente come Moratti, quindi resta soltanto da puntare sui giovani e rifondare un attimino quello che è il discorso squadra. Sì. Però non mi piace sentire le solite cose. Beh, dissento però dal fatto che una società strutturata ci sia, cioè molti dicono... Esatto, su questo io mi permetto di dissentire, per il semplice fatto che è vero, abbiamo la fortuna di avere un presidente come Moratti, io l'ho premesso questo, perché un presidente come Moratti che ha cacciato un sacco di grani per l'Inter, è stata una fortuna. Il fatto però che a mio avviso lui sia troppo tifoso, questo possa condizionare quello che è il normale svolgersi di una società e anche il modo in cui vengono presi i giocatori, perché i giocatori devono avere la consapevolezza che non ci sia solo il presidente è colui quale che ha l'ultima parola, però ci vuole un uomo forte e l'uomo forte deve essere legittimato. La mia impressione, forse da esterno, da solo tifoso interista, è quello che i giocatori cercassero una spalla nel presidente e che automaticamente venisse delegittimato l'allenatore. Questa è la mia personale impressione. Ci fermiamo per il traffico, 800 24 00 24, numero verde, tanto che molti fanno risalire il peccato capitale al licenziamento di Lele Oriali. Secondo me era una squadra che funzionava con Mourinho, di cui Mourinho era il... insomma, parafulmine, leader, deus ex machina assoluto, e intorno a lui tutto funzionava, compreso Oriali che ha dato una grande mano. Il radioascoltatore ha detto bene, sai, le vittorie ti portano serenità, ti portano a creare il gruppo. Il fatto è che la società deve essere più forte quando i risultati non vengono. È chiaro, claro che sì. Ed ecco che finalmente torniamo, sempre con Mario Boni e con Marco da Verona. Sì, buonasera. Mi spiace perché io sento sempre il suo programma, ma è già qualche volta che ho sentito dire che i giocatori della Juve guardano l'arbitro come se avessero visto Madonna di Campostela. No, ma l'ha detto lei prima, mi sembra giusto che dica solo dei giocatori della Juve. Penso che possa succedere Marco, quello che dico io è che quando si crea un clima di questo tipo, si è cominciato dalle richieste di rispetto, si è cominciato dai presunti torti, si è finito col silenzio stampa di domenica scorsa, quello che dico io, e non so se Mario Boni, che è stato giocatore di alto livello, può confermare o smentire, è che i giocatori non vanno in campo, secondo me, nelle migliori condizioni emotive possibili, più serene possibili, per accettare le decisioni dell'arbitro. No, certo, perché sei sempre condizionato a quello che viene dalla stampa, dalle mosse che fa la tua società. Questo è sicuramente un dato di fatto, perché sei influenzato. quando c'è, poi figurati nel calcio, no? Basta dire, sapere e leggere, no? Quello che succede tra i canali internet, tra i canali dei media. Il giocatore ha la percezione, poi qualunque cosa avvenga, di subire un torto, e questo non so quanto faccia bene una grande squadra che sta dimostrando di essere una grande squadra, la Juventus. Sì, sì, e che per me rimane comunque in piena corsa scudetto, anche se, certo, lo snodo di oggi è fondamentale col Milan che gioca tra poco a Parma, e la Juventus stasera su un campo Firenze difficile come quello di Firenze non sarà semplicissimo. Dai, facciamo, c'è Luca da Bergamo, poi ti faccio fare il tabellone di Champions League. Sei pronto? Luca! Ciao a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono tifoso interista come Mario, che vedo spesso volentieri su Sky, e sono completamente concorde con le sue opinioni. Grazie. Volevo chiedervi a entrambi, specialmente Mario, ma anche tu che sei molto competente, avendo letto sulla Gazzetta dello Sport lo sfogo di Gasperini, a questo punto non è che per caso non avesse tutti i torti quando diceva a me bastavano due giocatori senza prendermene 10 gratuitamente, tenendo Eto'o e prendendo Palacio con Nangolan del Cagliari? Questa era un'Inter, secondo me, fondamentale, forte. Io non so cosa ne pensate voi. Io ne penso quello che ho sempre detto, che Gasperini, Moratti non lo voleva, e se Moratti non lo voleva non gli prende i giocatori. Esatto, Carlo. Allora ritorniamo al discorso della società. Cioè, allora c'è una discrepanza tra ciò che fa Marco Branca. Ti ricordi l'anno scorso? Benitez, certo, è arrivato, ha chiesto i giocatori, che, no. Poi Leonardo, e allora. Ma allora è tutto diverso. Prendi Ranocchia. Lì rientriamo in quello che io dicevo sul discorso della società. La società è davvero un percorso univoco, e quando tu deleghi una persona a fare la campagna, mercato, come può essere Branca, deve avere il sostegno della società fino alla fine, perché hai fatto un investimento. È ovvio che Gasperini, secondo me, poteva essere un buon allenatore, però doveva essere rivoluzionata la squadra. L'Inter ha cominciato a fare l'errore nel 2010, ragazzi, dopo Madrid, quando Milito fece, quest'Inter è finita la notte di Madrid, quando Milito fece quella dichiarazione, è stata di una gravità, non per la dichiarazione di un giocatore, ma perché ha tolto autorevolezza alla società. Sicuro. Non poteva passare sotto silenzio una cosa di tale gravità. L'Inter finisce lì, c'è quella dichiarazione, c'è Mourinho che va via con la macchina da Real Madrid, c'è la Coppa che arriva a Milano, entra nello stadio senza allenatore, senza presidente. Quella è stata la fine del ciclo. Questo è semplicemente un lungo cammino sul viale del tramonto. Allora, a Puerin così a Real Madrid? Non ci sono grossi dubbi, no? Non ci sono, cioè, sai, lo sport non è bello, dirmi che perché il pallone è rotondo, dai. 8-0 e 7-1, diciamo Real Madrid. Diciamo Real Madrid. Marsiglia Bayern facile, perché Marsiglia è una squadra scarsa. E andiamo avanti su questa parte alta del tabellone. Real Bayern non è male. Real Bayern? No. Il Bayern è il semifinale. Ah, il semifinale, dico ancora Real. Quindi vedi Mourinho in finale, perché la capacità di non solo di motivare, ma nel riuscire a preparare i giocatori ai match più importanti, e questa è la grande capacità di Mourinho. Benfica Chelsea con la morte nel cuore, perché poteva esserci benissimo il Napoli. Il Napoli, sì, è stato un dispiacere. Il Napoli ha fatto peccato. Beh, dico Chelsea, anche in questo caso dico Chelsea, perché l'esonero di Villas-Boas, i giocatori sono, mi viene ad usare un termine molto forte, paraculi. Scusatemi per francese. E quando non vogliono un allenatore, non c'è niente da fare. Poi è arrivato Di Matteo, vecchia guardia, tutti in campo, ci mancherebbe altro. Esatto, tutti zitti. La squadra è vostra, Drogba, Lampard e compagni. E veniamo alla parte più interessante. Milan-Barcellona. È una sfida bellissima, perché c'è paura del Milan aver preso il Barcellona, ma anche il Barcellona ha paura del Milan, perché il Milan è una bella squadra, una squadra che sa giocare, che ha un grande giocatore come Ibra. Ha dei buoni giocatori con recupero di Boateng, vedo che stai un attimino, però il Barcellona è un'altra storia. Però sai, l'Inter che batté il Barcellona, lo batté in una certa maniera, pur essendo in 10, ce lo ricordiamo, e quindi è una sfida aperta. Io dico 60% Barcellona, 40 Milan, però 60-40, quindi poniamo che passi il Barcellona. Barcellona-Chelsea non si discute, non si discute. È la finale spagnola, è Mourinho contro Guardiola, chi vince? È partita secca e strana. Io tiferò per il Real, questo è chiaro, perché essendo io un fedele adepto del comandante Mu, non posso che tifare il Real. Cristiano, provincia di Pisa. Buonasera. Dica. Allora, prima di tutto volevo fare i complimenti a Mario, l'ho seguito, guarda, mi batte forte il cuore perché l'ho seguito per 11 anni a Montecatini. Grazie. e mi ricordo ancora la partita a Pistoia, 5 triple di fila dopo essere partiti molto molto male, che grande Mario. Grazie. E poi nulla, volevo parlare del Milan, voi avete detto 60-40, diciamo più un 70-30, pur sono essendo d'accordo. Milanese. No, io sono più d'accordo con Cristiano che non con Mario Bono. No, io sono assolutamente Diciamo che sono un tifoso, ho sempre detto, parlando anche con gli amici, sia juventini che interisti, sono un tifoso obiettivo. Il Milan, se sulla partita secca potevo dire anche 50-50, sull'andata e ritorno è dura. Io credo che sarà una partita con molti gol in entrambi i match, quindi è aperto a tutto. Il Milan... Allegri mi piace, sa preparare la partita anche lui bene, ovvio che il tasso tecnico è inferiore, però ecco, io non darei per così scontata la partita. Ce l'ha fatto vedere l'Inter quando ha giocato col Barcellona. È un'altra squadra, Mario, un'altra squadra, giocava in un'altra maniera, avevo un'altra anima. C'era qualcosa di diverso da opporre al Barcellona. Ultimo minuto, chi vince il campionato di basket? Siena o Milano? Siena senza il Sassi Lomba. Nello stagno di Scariolo? Beh, è stato molto polemico con la faccenda della nazionale, no? Da un certo, dipende da che punto, da che parte del tavolo ti siedi, non è tutte motivate, però io credo che il miglior allenatore del campionato italiano debba allenare la nazionale. Grazie Mario. A voi, a tutti. Torna prestissimo, grazie a Mario Boni. Noi invece con lo sport torniamo domani pomeriggio alle 4:30. Naturalmente apriremo parlando della prima corsa di Formula 1 che vedremo domani mattina alle 7 con le Ferrari subito a rincorrere. Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia, buona serata.